Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani. Ne abbiamo parlato già diverse volte nel nostro programma. Come sapete, il decreto anticrisi di novembre, diventato legge poi a fine gennaio, ha introdotto per il 2009 un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. Un beneficio che può essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare, una cifra diversa ovviamente a seconda della composizione del nucleo e del reddito percepito. Ma come spesso capita, le modalità con cui inoltrare la domanda sono un pochino complicate, per cui bisogna fare chiarezza ancora su questo tema. Ci si può rivolgere alla propria azienda, al proprio ente previdenziale se si è pensionati, o direttamente all'Agenzia delle Entrate. Io ne approfitto per ricordare che, proprio a proposito di bonus, poi ne spiegheremo un po' meglio i dettagli, stanno arrivando anche gli aiuti per rottamare l'auto, per rifare l'arredamento della casa. Domani, su tutta questa ampia rosa di bonus, pubblica uno speciale Il Sole 24 Ore. Ci torneremo anche noi domani sull'auto, l'arredamento e gli elettrodomestici. Oggi invece rimaniamo sul bonus straordinario a sostegno del reddito. Quindi tutte le vostre domande all'800240024 oggi potrete rivolgerle ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, perché oggi è una puntata interamente al femminile. Questo ci fa molto piacere. Oltre a me, insieme a me, Valentina Melis, collega delle Sole 24 Ore. Benvenuta, bentornata. Buongiorno. Glorioso passato radiofonico, naturalmente, quindi insomma un ambiente nel quale si trova assolutamente a suo agio Valentina. E poi Stefania Lucchese, dirigente ufficio persone fisiche della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate. La saluto subito, dottoressa Lucchese, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno. Grazie di essere con noi e grazie di essere di nuovo con noi anche a Filomena Troise, CAF CISL nazionale, quindi centri di assistenza fiscale in questo periodo assolutamente intasatissimi di lavoro. Troise, bentornata. Grazie a voi, buongiorno. Numero verde per intervenire per le vostre domande in diretta, ve l'ho ricordato, ci potete anche scrivere al 349-238-6666, tanti temi di cui parlare, tanti ospiti. Allora, la borsa la faccio abbastanza rapidamente questa mattina, vi ho già spiegato che c'è un quadro negativo in Europa, abbiamo un calo di circa mezzo punto percentuale, piuttosto abbondante per la verità, tra Parigi, Francoforte e Londra. L'S&P MIB a Piazza Affari perde lo 0,46%, sono sotto pressione ancora i titoli del settore bancario, finanziario ed assicurativo. Oggi Wall Street sarà chiusa per il President Day, per cui mancherà qualche stimolo da Wall Street, e vedremo se l'Europa appunto riuscirà nel pomeriggio a riprendersi. Rapidamente, i migliori titoli a Piazza Affari: bel rimbalzo di Seat Pagine Gialle, più 6%, ma questo titolo ha perso il 27% in tutta la scorsa settimana. Snam Rete Gas più 2,29, Eni più 1,74, i peggiori Ubibanca meno 4,48, Fondiaria meno 2,50, Bulgari meno 2,43%. Rapidamente lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, ritorniamo sui criteri per ottenere, per vedersi riconosciuto il bonus straordinario deciso dal governo nell'ambito delle misure anticrisi. Per i nuovi aiuti alla famiglia stabiliti dal governo, bisogna ormai tenere d'occhio il calendario. La prima data chiave per bonus famiglia e social card è il 28 febbraio. A fine mese scade innanzitutto la prima chance per richiedere l'una tantum dai 200 ai 1000 euro, destinato alle famiglie con reddito complessivo compreso fra 15.000 e 35.000 euro. Il bonus si rivolge anche a nuclei familiari con persone disabili, anche se non si tratta dei figli del richiedente, e agli extracomunitari, purché residenti in Italia, anche se i familiari a carico vivono all'estero. Nessun beneficio doppio invece per genitori separati o non sposati. Per richiederlo va presentato un modulo al proprio datore di lavoro o ente pensionistico entro il 28 febbraio. Se invece il bonus non viene erogato dal sostituto, si potrà presentare la richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate, solo per via telematica, entro il 30 aprile. Quest'ultima possibilità può riguardare anche i lavoratori domestici che non hanno un sostituto d'imposta e che possono comunque farsi aiutare dai centri di assistenza fiscale. In alternativa, si può richiedere il bonus fotografando la situazione del 2008. In questo caso la domanda va presentata al sostituto d'imposta entro il 31 marzo o si può fare richiesta direttamente nel modello unico o 7.30. Sempre il 28 febbraio scade la proroga per richiedere i 120 euro di arretrati della social card relativi a ottobre, novembre e dicembre 2008. Per i destinatari della carta, che sono gli anziani con almeno 65 anni e le famiglie con bambini minori di 3 anni con reddito basso, sono previsti, oltre ai 120 euro, gli 80 euro per i primi 2 mesi del nuovo anno. Ma le misure a sostegno delle famiglie più deboli non si esauriscono qui. Sono previsti anche buoni per le vacanze e per le famiglie con un nuovo nato. Al posto del classico bonus bebè da 1.000 euro in vigore gli anni scorsi, la finanziaria 2009 istituisce un fondo di garanzia da 25 milioni di euro l'anno per 3 anni, per favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie alle prese con un nuovo figlio, integrato da altri 10 milioni di euro nel caso di bambini affetti da malattie rare. 800 24 00 24, vi ricordo come sempre ancora il numero verde per i vostri interventi, per i vostri messaggi invece il numero è il 349 238 6666. Allora, Valentina, Melis, presentiamo subito la super guida che esce domani con il Sole 24 Ore. Ci saranno soprattutto le auto e gli elettrodomestici, ma anche il bonus famiglia. Certo, insomma, una bella presenza. Abbiamo, come ha già anticipato, sono molte le misure, le agevolazioni, i benefici varati proprio per far fronte alla crisi, dalla social card prima al bonus famiglia, poi al decreto 5 del 2009 che, come anticipavi, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali sull'acquisto di auto, elettrodomestici, mobili. Sono tante misure tra le quali il contribuente, il cittadino potrebbe trovarsi un po' disorientato. In questa guida si cerca quindi di fare il punto intanto su tutte le agevolazioni introdotte dall'ultimo decreto, ma poi si riprende anche nell'ultima parte, stante la scadenza del 28 febbraio, come sentivamo nella scheda, tutta la parte relativa appunto al bonus famiglia. Quindi presentiamo nuovamente le condizioni di reddito, perché non conta solo l'ammontare del reddito ma anche il tipo di reddito. Quindi ad esempio, escluse le partite IVA, ammessi i redditi di lavoro dipendente e quindi lavoratori dipendenti o pensionati. Quindi poi ricapitoliamo appunto quanto vale il bonus, a chi va richiesto, con quali scadenze, e poi abbiamo dedicato una piccola appendice anche al bonus energia, che è stato un po' dimenticato perché risale a un paio d'anni fa, ma la fase attuativa è partita a gennaio di quest'anno. Esattamente, con un ruolo tra l'altro molto attivo da parte dei comuni. Noi proprio con l'autorità ne abbiamo parlato, non a Salvadanaio, in un altro contenitore, soldi e intorni, per richiamare l'attenzione anche intorno a tutti questi provvedimenti che magari, non conoscendoli, a volte si rischia anche di perderli. E tra l'altro anche questo è un punto molto importante, perché la platea degli interessati al bonus straordinario è molto ampia in Italia, ma qua se non si comunica bene, insomma, che c'è questa possibilità, qualcuno rischia di non poterla chiederlo. Avere. Certo. Infatti il governo aveva stimato una platea di 8 milioni di beneficiari per un ammontare complessivo di 2 miliardi e 400 milioni di spesa. Secondo invece le stime dei CAF, le domande per il bonus famiglia raggiungeranno i 2,5 milioni, perché credo che fino a pochi giorni fa erano 1,4 milioni le domande presentate. Secondo i CAF, poi ce lo dirà meglio la nostra interlocutrice, il problema sta in una scarsa conoscenza di questa misura, che appunto è stata introdotta dal decreto 185 del 2008, quindi a fine anno scorso, convertito da una legge entrata in vigore all'inizio dell'anno, e l'Agenzia delle Entrate proprio poco tempo fa, con una circolare molto dettagliata, ha spiegato tutta la procedura e tutti i dettagli necessari, però evidentemente ancora i contribuenti non conoscono ancora appieno il bonus. Mi hai dato due assist per fare una domanda sia ai CAF che all'Agenzia delle Entrate. Allora, visto che l'Agenzia delle Entrate per la prima volta interviene a Salvadanaio, dottoressa Lucchese, la collega Valentina Meli si richiamava l'attenzione proprio su questa importante circolare che è stata diramata lo scorso 3 febbraio, la famosa 2/E, nella quale si chiariscono molti aspetti, soprattutto relativi alla platea dei destinatari questo bonus. E tra l'altro è una circolare che ha aperto anche, come dire, questa possibilità, perché ci sono delle precisazioni che riguardano soprattutto gli stranieri che abitano nel nostro paese, tema sul quale tra l'altro anche il Sole 24 Ore analizza appunto molti punti questa mattina. Dottoressa Lucchese, che tipo di novità appunto ha apportato la circolare? Sì, con riferimento proprio ai soggetti destinatari, la circolare ha chiarito quali sono le tipologie di redditi che questi soggetti devono avere, e cioè in particolare devono essere o lavoratori dipendenti, o pensionati oppure titolari di alcuni redditi assimilati, non tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma soltanto quelli espressamente previsti e precisamente compensi percepiti dai soci di cooperative e produzione e lavoro, naturalmente i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa oppure di collaborazione a progetto, i compensi percepiti dai soggetti socialmente utili e gli assegni periodici corrisposti dal coniuge, quindi un soggetto appunto che riceve soltanto l'assegno periodico del coniuge ha diritto a richiedere il bonus. Mm-hmm. Inoltre, in aggiunta a questi redditi che devono essere necessariamente in capo al titolare richiedente, ci possono essere anche redditi di immobili, per esempio il reddito dell'abitazione principale oppure anche di un'abitazione secondaria o anche di un terreno e inoltre le persone a carico possono anche avere dei redditi diversi, in particolare redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi di impresa sempre non occasionale, quindi non osta la circostanza che ad esempio un figlio abbia fatto un piccolo lavoro occasionale e sia comunque rimasto a carico, quindi questa è la precisazione per quanto riguarda i redditi. Per quello che riguarda sì, invece altri aspetti, la questione degli stranieri residenti nel nostro paese, la circolare è stata molto dettagliata anche su questo punto, mi sembra. Sì, perché è stato chiarito che il richiedente deve essere un soggetto residente in Italia. Quindi questa è la residenza richiesta soprattutto al richiedente, mentre per quanto riguarda i familiari a carico, così come sono concesse le detrazioni per familiari a carico anche se il familiare non è residente in Italia, così anche per quanto riguarda il bonus è ammessa questa circostanza. Naturalmente rimangono sempre valide le regole richieste per il carico fiscale, e cioè il limite di reddito, la convivenza oppure la circostanza che la persona che risiede in Italia e che ce le ha a carico mantenga queste persone, cioè versi degli assegni periodici per il mantenimento di questa persona. E per provare invece la relazione di parentela ci si rifà alle regole che sono dettate proprio per queste circostanze, e cioè il richiedente extracomunitario deve provare la relazione di parentela con riferimento al figlio, al coniuge o all'altro familiare a carico mediante o la documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese di origine con traduzione in lingua italiana e l'asseverazione da parte del prefetto competente per territorio, oppure la documentazione con l'apposizione della postil per i soggetti che provengono dai paesi che hanno sottoscritto la convenzione, la particolare convenzione dell'AIA del 61, oppure ancora con la documentazione validamente formata nel paese di origine ai sensi della normativa vigente in quel paese e tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano. Quindi nel paese di origine. Queste sono le regole che ordinariamente sono richieste per provare la relazione di parentela. Quindi insomma certo, no, dicevo solamente qualcosa di più rispetto alla un po' più semplice autocertificazione che invece devono produrre i cittadini italiani. Filomena Troisi, adesso magari entreremo anche un po' più nel merito della questione che riguarda i cittadini stranieri, però mi stavo chiedendo a tutte le persone che state aiutando in questo momento a compilare la modulistica necessaria e ad inoltrare appunto alle figure apposite la domanda per l'erogazione del bonus straordinario, quali sono ancora i dubbi più diffusi fra i cittadini appunto che ritengono di aver diritto di questo beneficio, che ricordiamo è una tantum e varrà solo per quest'anno, perché tra l'altro poi ci sono delle domande anche su questo. Troisi. Sì, noi in effetti dalla pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate abbiamo comunque aumentato, diciamo, le pratiche che avevamo un po' sospeso, no, per in attesa di questi chiarimenti, quindi comunque le pratiche già fatte ad oggi sono molto aumentate rispetto, anche se ci siamo sentiti una settimana fa, quindi una settimana abbiamo avuto un certo incremento di pratiche elaborate. Qualche dubbio rimane sulla natura del reddito. Io approfitto insomma della presenza della dottoressa Lucchese per rivolgere insomma un dubbio che abbiamo come CAF sull'assistenza che diamo ai contribuenti rispetto all'anno 2007 e il 2008. Sappiamo insomma che il contribuente può in base al reddito del nucleo 2007 o 2008 richiedere il bonus in diverse scadenze. Però rispetto alla natura reddituale che ci aveva prima esposto la dottoressa, ci chiediamo se questo requisito debba essere comunque rispettato anche per il 2007, visto che la norma parla di aver conseguito nel 2008 questi redditi. Ci chiedevamo insomma se anche questo requisito doveva essere. Sa che non l'ho capito bene io, però, Troise. Allora, noi possiamo decidere ovviamente di far valere un periodo reddituale piuttosto che un altro, chiaramente sceglieremo quello più basso perché è quello che ci dà diritto appunto ad ottenere. Esatto. Quindi non capisco la natura appunto della precisazione che chiede. La capisce Valentina, sì, che mi aiuta a interpretare? Perché l'articolo 1 del decreto fa proprio riferimento al 2008, cioè dice che in riferimento al 2008 il contribuente che fa richiesta del bonus deve aver avuto questi redditi, parlando del tipo di reddito e della composizione del nucleo. Effettivamente c'è un riferimento all'anno, però poi si dice anche che si può scegliere tra il 2007 o il 2008 per fare la domanda. Quindi adesso non vorrei mettere in difficoltà la dottoressa Lucchese. Sì. No, confermiamo insomma che il requisito reddituale debba essere rispettato in base al reddito che viene preso in considerazione, ecco. Perfetto. Abbiamo chiarito i dubbi, Troise? Pronto? Posso. Troise, mi sente? Sì, adesso sì. Sì. Dicevo, noi avevamo bisogno solo di una conferma. Però certo. Più che altro. Come dire, fatta in radio, lei dice ha una validità, magari forse l'Agenzia delle Entrate dovrebbe intervenire un po' più nel merito scritto, dice lei? No, assolutamente, no, era solo un dubbio che avevamo. Che avevamo, insomma, speriamo. Dottoressa Lucchese. Credo che non sia. Guardi, con riferimento all'anno, la norma pone che la tipologia di reddito, quindi la qualità del reddito, debba esserci senz'altro nel 2008. Naturalmente, se un soggetto richiede, perché questa è una facoltà che dà la legge, no? di potersi riferire al 2007 o al 2008. A seconda se uno ha avuto per la misura del reddito, per il numero dei componenti, una situazione più favorevole, certo, evidentemente, alla domanda. Allora, nel 2008 sicuramente deve avere questa tipologia di reddito. Se però richiede l'agevolazione con riferimento al 2007, è chiaro che deve avere anche per il 2007 quella tipologia di reddito, perché è esattamente quello che intende dare la norma, cioè dare un aiuto ai pensionati e ai lavoratori. E infatti, e ai lavoratori. Altrimenti verrebbe a cadere proprio tutto l'impianto dell'intervento che aveva proprio questa natura, certo. Giovanni D'Ancona, rapidissimo, la sua prima domanda di oggi, tra l'altro non so neanche se riusciremo a rispondere, lo faremo senz'altro nella seconda parte del nostro programma. Benvenuto. Buongiorno e grazie per il servizio. Grazie a lei. Senta, è un quesito, non so se è particolare, è un nucleo familiare di mia cugina che è cambiato dal 2008 al 2009 in seguito al matrimonio di uno dei figli. Sì. In pratica nel 2008 erano in quattro persone con due redditi da lavoro dipendente. In questo caso, eventualmente, se avessero diritto per il 2008, chi potrebbe chiedere il bonus dei due figli che lavoravano? Uno dei due? Questo è il primo quesito. Poi, il 10 gennaio del 2009, uno dei figli si è sposato, è andato a fare il nucleo familiare proprio, sono rimasti in tre, soltanto con un reddito. Che è una figlia che lavora in un call center. Sì, comunque, insomma, in ogni caso la situazione è cambiata adesso. Esatto, se il bonus vale anche per il 2009. Giovanni, questo ci sentiamo di poterlo escludere, bisogna semplicemente riverificare appunto quella che era la situazione nell'anno per il quale si intende far valere la richiesta del bonus. Allora, riprendiamo in mano le redini della trasmissione di stamattina. Ci siamo di nuovo rituffati nell'ambito di una questione piuttosto complicata e stamattina lo stiamo scoprendo di nuovo. Il bonus straordinario per le fasce sociali a basso reddito. La questione sta entrando nel vivo perché tra l'altro per una ampia fascia di popolazione c'è tempo fino a fine febbraio per poter fare la richiesta, per poi ovviamente vedersi erogato il bonus nella busta paga del mese successivo. molte persone, tra l'altro, che ne hanno potenzialmente diritto non stanno facendo questa domanda, probabilmente colpa un po' di tutti, anche di una scarsa informazione intorno a questa misura. E poi ci sono anche dei casi piuttosto complicati, perché in realtà la norma è evidentemente, come molte norme, generica, ma i casi singoli poi vanno un pochino a scompaginare le carte in tavola. Infatti Giovanni D'Ancona ci ha chiesto un paio di cose che ci danno l'opportunità, tra l'altro, di tornare ancora sulla famosa circolare dell'Agenzia delle Entrate di cui parlavamo prima, che sul punto interviene abbastanza esplicitamente. Però Valentina Melis, forse vale la pena, prendendo il caso di Giovanni D'Ancona, per ribadire che il bonus è uno, non è che certo. Ce lo danno per il 2007, per il 2008 e soprattutto non ce lo ridanno per il 2009, ci sembra abbastanza improbabile. Allora, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che il bonus straordinario, come dice la norma, per le famiglie è una tantum, cioè un'erogazione che avviene una volta sola, per cui è vero che si può scegliere l'anno al quale fare riferimento per il reddito, quindi il 2007 o il 2008. E questo pure lo abbiamo chiarito. E questo lo abbiamo chiarito, ma non è che uno può prendere un bonus nel 2007 e un bonus nel 2008, il bonus si prende una sola volta. In riferimento al caso dell'ascoltatore di Ancona, che fa riferimento appunto al cambiamento del nucleo familiare, poi magari la dottoressa Lucchese sarà più precisa, ma mi è venuto in mente un passaggio della circolare 2 che chiarisce molto bene che la richiesta effettuata per un anno esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, per cui se il nostro ascoltatore o comunque il componente al quale fa riferimento era a carico dei genitori, faccio per dire, nell'anno in cui viene richiesto il bonus, in riferimento al quale viene richiesto il bonus, praticamente non può poi fare la richiesta in riferimento all'anno successivo, neanche se si è sposato, perché sostanzialmente se ci sono quattro componenti, A e B sono i genitori, C e D sono i figli a carico, dice la circolare, sostanzialmente A può chiedere il bonus famiglia in riferimento ad un anno, i figli C e D entrano a far parte del suo nucleo familiare, se C o D, faccio per usare lo schema delle entrate, si sposa l'anno dopo, siccome il nucleo familiare ha già avuto il bonus nel suo complesso, C o D non potrà fare richiesta evidentemente neppure in caso di uscita dal nucleo, perché certo. Il bonus è già stato percepito. Erogato, certamente. Dottoressa Lucchese, ci si ritrova in questa ricostruzione? Sì, esattamente come ha detto la dottoressa Melis, sì, intanto stavo guardando, sì. Tra l'altro, per chi volesse così magari leggersi, divertirsi a leggere la circolare dell'Agenzia delle Entrate, tutto questo è riportato a pagina 9. Dottoressa Lucchese, voleva intervenire, su voleva precisare qualche altro aspetto? No, l'unica cosa era appunto che non è non c'è il bonus con riferimento all'anno e alla situazione 2009, cioè esattamente. Il bonus è erogato naturalmente in quest'anno 2009, ma la situazione di riferimento può essere o quella del 2008 o quella del 2007. Esattamente, quindi, a meno che poi il governo non intervenga e magari stabilisca di voler procedere anche ad un altro intervento di questo tipo per l'anno che stiamo attraversando, non è improbabile, visto che sarà un po' difficile per molti aspetti, insomma, ma poi ne torneremo a parlare quando sarà necessario. Per adesso c'è sufficiente la materia che abbiamo a disposizione. Ed è già tanta. Sentiamo un altro ascoltatore e vediamo poi di ricoinvolgere anche Filomena Troise del CAF CISL nazionale. Mario da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono separato con mia moglie, e abbiamo due ragazzi, due figli minorenni che abbiamo, diciamo, divisi in due come a carico, diciamo, ci siamo divisi a carico 50 e 50. Sono andato all'ufficio delle imposte dirette e mi hanno detto che per fare io domanda dobbiamo fare prima di tutto domanda a tutti e due, io e mia moglie. La prima domanda: posso fare io domanda separatamente da mia moglie? Il minimo, diciamo, il tetto massimo del reddito mi hanno detto che deve essere 17.000 euro. Allora Mario, andiamo da Filomena Troise, che così ci ribadisce anche così qualche precisazione in merito ai nuclei familiari, ovviamente che si sono separati, no? Come il caso di Mario, due figli, ogni coniuge si è preso a carico un figlio diverso, quindi in questo caso per esempio la prima domanda è: a patto che ricorrano le condizioni reddituali, possono fare due domande separate? Devono fare due domande separate. Esatto, quanto anche infatti. La circolare ha chiarito che comunque la norma in generale dice che il nucleo è formato dal coniuge se non effettivamente legalmente separato, quindi nel momento in cui due coniugi sono separati non fanno più parte dello stesso nucleo, rimangono i figli. figli a carico, sempre relativamente alla separazione, no? Si prende in considerazione la sentenza. Se viene affidato, se il figlio viene affidato ad un coniuge, questo è quindi a carico del coniuge a cui viene affidato per legge. Altrimenti, se c'è l'affidamento congiunto, questi è al 50%. Però la circolare 2 ha chiarito che se un figlio è a carico, quindi è nel nucleo di un genitore, non può risultare nel nucleo dell'altro. E quindi questo caso specifico come va disciplinato? Non mi sembra che ricorra, insomma, questa circostanza? No. Esatto. Perché sono due. Può soltanto richiederlo uno dei due coniugi con il figlio. No, voglio dire, siccome però sono due figli, ogni genitore ha il suo bambino a carico, quindi per esempio il signore che ci ha chiamato può fare la domanda per il bonus tenendo conto del fatto che ha a suo carico un figlio. La ex coniuge potrà fa la domanda separatamente per l'altro nucleo familiare che è distinto. Io credo che sia possibile farne due. Sì, fare quindi anche questo è un caso. L'importante è che i due figli siano in due nuclei diversi. Esatto, sì, certo. Tanto è vero che, scusate. No, Valentina, vai, ci mancherebbe. Perché l'ascoltatore faceva riferimento al limite reddituale di 17.000 euro, che infatti è previsto dalla norma per i nuclei familiari formati da due componenti. Quindi in questo caso il nostro ascoltatore e il figlio, d'altra parte, sarà l'altro coniuge con suo figlio. La soglia reddituale è proprio per due persone. Mamma mia, cioè, potremmo fare penso centinaia di trasmissioni, ma ogni nucleo familiare ha una situazione a sé, per cui non si può assolutamente, come dire, noi ci proviamo a dare tutte le regole standard, ma poi evidentemente ogni caso singolo ci impone di andare ad analizzare quello e da lì non si sfugge. Luigi da Caserta. Salve. Buongiorno. Una domanda, in qualità di lavoratore dipendente, sì, il mio è un obbligo o è una facoltà presentare la domanda di bonus al datore di lavoro, nel senso che posso non presentarla al datore di lavoro e poi fare la richiesta all'agenzia delle entrate, tra l'altro telematica? Luigi, grazie. Perché lei non ci vuole andare proprio dal datore di lavoro a fare questa domanda al sostituto d'imposta? Perché è arrabbiato con lui? No. Sto scherzando, la sto prendendo in giro anche un po' per alleggerire questa giornata, Luigi, perché il tema non è che sia proprio tanto simpatico da affrontare. Comunque sentiamo i nostri tecnici che cosa ci dicono. Dottoressa Lucchese dell'Agenzia delle Entrate, diciamo che la facoltà di andare direttamente all'Agenzia delle Entrate per presentare la domanda è una facoltà data a quelle persone che non possono valersi del sostituto d'imposta o dell'ente previdenziale perché percepiscono la pensione. In caso di questo tipo, lei, insomma, se qualcuno le venisse a fare una domanda di questo tipo, come risponderebbe? È una facoltà quella di andare dal sostituto d'imposta o un obbligo se si è un lavoratore dipendente? Certo, la norma ha previsto la possibilità di rivolgersi direttamente al sostituto d'imposta, perché in questa maniera l'erogazione del bonus avviene infatti, molto prima. Esattamente. Ecco, quindi è sicuramente un vantaggio quello di rivolgersi al sostituto d'imposta, perché l'erogazione avviene entro marzo addirittura, oppure se con riferimento al 2008 avviene entro aprile o entro maggio. Invece se una persona utilizza lo strumento della dichiarazione dei redditi, se è un 730, ce l'avrà sicuramente, ce l'avranno non prima di luglio, se è un pensionato addirittura agosto, e con l'istanza e necessariamente dopo, perché devono essere prima verificate tutte le altre modalità con le quali viene erogato il bonus. Quindi sicuramente è una agevolazione quella di rivolgersi al sostituto d'imposta. Tra l'altro si ha il bonus in busta paga senza attendere altre modalità. Comunque se una persona non lo ha richiesto, il che può benissimo accadere, perché per esempio pensava di richiederla per il 2007 ma voleva verificare i suoi redditi del 2008, che può verificare soltanto a fine febbraio facendo dei calcoli, quindi può benissimo accadere che una persona non abbia fatto la richiesta per tempo, può farla sicuramente, non è escluso insomma. Che no, infatti ecco, tra l'altro noi continuiamo anche a ribadire il fatto che ci sono delle scadenze, che un tot di persone che possono far valere un determinato reddito devono fare la domanda domanda entro il 28 febbraio, ma non è che sia poi così tassativo, Valentina. Sì, no, come diceva la dottoressa, se magari si vuole attendere appunto di conoscere i dettagli del reddito 2008, si supera la scadenza di febbraio e a quel punto non si è chiesta l'agevolazione al sostituto d'imposta, resta solo la domanda alle entrate. Effettivamente potrebbe darsi anche questo caso. La norma in realtà aveva previsto che la domanda all'Agenzia delle Entrate fosse residuale, cioè in tutti i casi in cui il sostituto d'imposta non può, diciamo, erogare il bonus per vari motivi, oppure perché è un datore di lavoro che non è sostituto d'imposta, come il datore di lavoro domestico, la colf o la badante non può andare dalla famiglia presso cui lavora. Ti ringrazio per la precisazione, perché molte colf ci stanno scrivendo per sapere se sono nel diritto di chiedere il bonus. Sì, a quel facendo punto questa però procedura. Si devono rivolgere alle entrate, quindi ci sono molti casi in cui le entrate raccoglieranno le domande che non possono essere soddisfatte dai sostituti. No, è un aspetto importante. In ogni caso il decreto non parla di un obbligo da andare da una parte piuttosto che dall'altra. È la facoltà che velocizzerebbe i tempi. Sarebbe meglio, come diceva la dottoressa, perché altrimenti poi si va molto in là anche con l'erogazione. Già per esempio, per fare un dettaglio, l'INPDAP ha fatto sapere che l'erogazione avverrà con le pensioni di aprile, perché non ce la fanno entro il 16 marzo, che è la data di pagamento delle pensioni, ad erogare i bonus con le domande al 28 febbraio. Quindi è anche, come diceva la dottoressa Lucchese, conveniente per il contribuente scegliere la data che gli assicura che il bonus arrivi prima. Eccoci ritrovati all'ultima parte di Salva Danaio. Ancora qualche domanda da parte di ascoltatori, poi in realtà ho poco tempo perché devo darvi altre comunicazioni di servizio rispetto ad iniziative del Sole 24 Ore molto interessanti che riguardano sempre l'economia. Allora sentiamo un paio di richieste da parte di ascoltatori, grazie alle quali ribadiamo ancora come un po' ci stiamo muovendo in un ginepraio che è questa norma che disciplina l'erogazione del bonus straordinario. Questo però non toglie che anche se la norma vi scoraggia perché è un po' complicata, non toglie che magari valga la pena farsi un giro in un centro di assistenza fiscale per capire se siete nel diritto di appunto vedervi riconosciuto questo bonus straordinario. Magari sarà anche poca cosa, però è pur sempre qualcosa che magari in un mese vi può dare anche un aiuto, per cui cercate di fare bene ordine nelle vostre carte, nelle vostre situazioni reddituali del 2007 e del 2008, perché magari c'è l'opportunità appunto per ottenerlo. Sentiamo rapidamente Irma da Vicenza. Irma, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo chiedere alla signora, alla rappresentante dell'Agenzia delle Entrate. Proprio a lei, ma abbiamo anche le altre due interlocutrici che sono molto brave. Anche gli altri. Qual è la cifra che non si deve superare dei redditi non di pensione e non di stipendio, cioè per esempio reddito da fabbricati, in un nucleo familiare di due persone dove una delle due, cioè la figlia, è handicappata grave, cioè il 100%. Allora Irma, proviamo intanto con Filomena Troiser, CAF CISL. Sì. Perché temeva che io più passi la domanda a lei, eh? No, sentivo no. Già che rideva. Non c'è problema. Vabbè, cerchiamo magari di dare un'indicazione di massima. Sì. Può chiedere addirittura il bonus dei 1.000 euro, no? Con un reddito non superiore a 35.000 euro, certo. Sì, proprio perché ha un familiare a carico portatore di handicap ai sensi della 104. Quindi chissà perché Irma ha chiesto se invece fosse il caso di far valere il reddito da fabbricato. Forse voleva sapere se diciamo avere il fabbricato innalza la soglia del reddito. In realtà sono 35.000 euro che sono appunto la soglia, come diceva la interlocutrice del CAF, per chi ha un familiare con disabilità. Abbiamo ancora Irma in linea? Sì, sono qua. Io perché, sono andata, perché si era posta il problema Irma? Sì. Perché io sono andata al mio CAF e siccome ho un reddito, ho una pensione di 9.956 euro, sì, e un reddito da fabbricato di 2.835, mi hanno detto che siccome il reddito da fabbricato è superiore non so a quale fantomatica cifra, non ho diritto. Ci risulta del tutto nuova questa interpretazione. Per i redditi fondiari magari era la soglia di 2.500 euro. Qua la dottoressa Lucchese ce lo può ricordare. Sì, proviamo con la dottoressa Lucchese dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Sì, purtroppo è previsto proprio questo. Cioè è previsto per tutte le altre tipologie di reddito il tetto massimo, le soglie previste che sono a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. Con riferimento invece ai redditi fondiari, è previsto che non debbano superare tutti insieme i 2.500 euro. Quindi c'è un limite interno, diciamo, che è riferito soltanto ai redditi fondiari. Questo perché appunto quello che si vuole far valere è soprattutto il reddito derivante dal lavoro. Poi il reddito fondiario è un reddito ammesso, però deve essere limitato, quindi 2.500 euro è quello che il legislatore ha ritenuto appunto essere come con un reddito limitato. Quindi la presenza, è vero, del portatore di handicap avrebbe fatto consente di verificare un limite di 35.000 euro, fermo restando però che i fondiari devono essere fino a 2.500 euro. Quindi purtroppo della signora effettivamente il CAF le ha dato la risposta corretta, quindi quantomeno non c'era stata in realtà una errata interpretazione. Dottoressa Lucchese, la ringrazio, speriamo anche insomma con questa precisazione di aver chiarito le idee a molti altri che magari si trovano nella stessa condizione, cioè ritengono di avere le condizioni reddituali magari proprio per l'erogazione del bonus più alto, invece per un'altra tipologia di reddito percepito questa possibilità viene a cadere. Allora, riesco a far intervenire rapidamente Emanuele da Lecce, però deve essere buongiorno. Telegrafico. Sì, Emanuele, buongiorno. Un'informazione velocissima. Volevo solo sapere quali sono i tempi di erogazione chiedendo il bonus all'Agenzia delle Entrate. Sì, credo che siano quelli un po' più in là nel tempo. A quanto ammonta, diciamo, il tempo? Allora Valentina, riusciamo con te a fare quest'ultima precisazione? Ce lo ricordava proprio la dottoressa Lucchese, praticamente domanda va erogata più avanti, c'è tempo fino ad aprile per fare la domanda, oppure si può fare in riferimento ai redditi 2008 la richiesta tramite la dichiarazione dei redditi 2008, quindi nei tempi di presentazione della dichiarazione dei redditi o a giugno 2009, sicché l'erogazione sarà sicuramente successiva a questa fase, per cui direi più probabilmente dalla seconda parte dell'anno in avanti. Allora, io prima di salutare le mie ospiti le chiedo di avere un attimo di pazienza perché vi faccio ascoltare una cosa molto interessante. Vi devo segnalare che domani, oltre alla guida ai bonus che ci presentava prima Valentina Melis, da domani sarà possibile acquistare in edicola con il Sole 24 Ore il primo dei 12 volumi di Storia dell'economia mondiale, capire il futuro dell'economia attraverso la sua storia, a cura del professor Valerio Castronovo, che abbiamo sentito e ha presentato il contenuto e gli obiettivi dell'opera ai nostri microfoni. La storia è sempre stato un modo di leggere il passato per capire da dove veniamo, per capire quindi il presente e per costruire allo stesso tempo il futuro sulla base dell'esperienza di ieri. E questa storia dell'economia mondiale che è pubblica adesso il Sole 24 Ore risponde a questo obiettivo. Sviluppo un discorso dove si possono ritrovare dei fili che, lungo le varie età, si collegano a ciò che è avvenuto dopo, a ciò che ha posto le premesse del mondo in cui viviamo, ed è quindi una lezione di storia utile anche per il presente, per comprendere i fili, i rapporti, le matrici del mondo noi in cui viviamo. Si possono ritrovare, diciamo, i primi embrioni della globalizzazione, si può ritrovare attraverso la storia delle monete anche le peripezie, la vicenda dell'inflazione, del rincaro dei prezzi, e si possono ritrovare anche le soluzioni che sono state allora adottate per affrontare questo problema. Si possono ritrovare le matrici dell'organizzazione del lavoro e si possono ritrovare appunto tante tracce, tante testimonianze che ci spiegano appunto come oggi noi abbiamo affrontato o organizzato i problemi del tempo, del nostro tempo. E insomma, quindi attenzione anche domani all'uscita con il Sole 24 Ore di questa storia dell'economia. Avete sentito il professor Valerio Castronovo, che ne è il curatore. Domani, tra l'altro, il Sole 24 Ore c'è anche un'altra importante manifestazione, il premio Alto Rendimenti, gestori e fondi che battono la crisi. Noi ci occuperemo di questo mercoledì a Salvadanaio. Stamattina invece abbiamo parlato del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. A qualcuno avremo chiarito le idee, ad altri le avremo un po' confuse. Per chiarirle però definitivamente, sicuramente domani è utile la guida ai bonus che esce con il Sole 24 Ore. Io ringrazio molto le mie ospiti di questa mattina: Valentina Melis, la collega del Sole 24 Ore, Stefania Lucchese, Agenzia delle Entrate, Filomena Troise, CAF CISL Nazionale. Insomma, il tema è piuttosto complicato, ma forse vale la pena, lo ribadisco, fare un punto della situazione sui redditi percepiti nel 2007 e nel 2008 e cercare di capire se siete nelle condizioni economiche e ovviamente poi anche familiari per fare la domanda per questo bonus, che è una tantum, vale solamente una volta, però magari è utile a risolvervi un po' di problemi. Noi magari ci ritorneremo. Grazie a tutti, a domani.